GR24, il sole 24 ore. Roma, guerriglia urbana in centro, ultraslaziali assaltano un pub, 10 feriti. Due omicidi a Milano in poche ore, il questore Savina, Italia in controluce, nessun legame tra loro. La legge di stabilità, governo battuto su Tobin Tax. Il DDL diffamazione, via libera, la norma salva direttori. Buona giornata da Adriana Fracchi e dalla redazione. Roma, guerriglia urbana in centro, ultraslaziali assaltano un pub, 10 i feriti. Per tutti gli ultimi particolari ci colleghiamo in diretta con Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, un'aggressione consumata in pochi minuti in un pub della centralissima piazza Campo dei Fiori, cuore della movida capitolina, è spesso tristemente nota per episodi del genere. Un gruppo di tifosi inglesi arrivati qui a Roma per l'incontro di calcio Lazio-Tottenham in programma stasera all'Olimpico stava consumando una bibita all'interno del locale quando all'1:30 circa hanno fatto irruzione una cinquantina di ultralaziali, volti coperti, armati di mazze da baseball, bastoni e coltelli, hanno sferrato pugni, calci e coltellate. Il bilancio è di 10 feriti tutti inglesi tra i 20 e i 60 anni, uno dei quali è stato ricoverato in codice rosso, sta subendo un intervento chirurgico perché una coltellata gli ha trafitto l'aorta. Il locale è completamente devastato, una vera e propria spedizione punitiva. Gli ultra, dicono gli inquirenti, erano alla ricerca di tifosi inglesi. 5 di loro sono stati fermati, si trovano negli uffici del commissariato Trevi, la polizia li sta ascoltando per ricostruire l'accaduto. E un aiuto verrà anche dalle numerose telecamere presenti nella piazza. Intanto arrivano i commenti sui media inglesi, il sentimento prevalente è l'indignazione. Dalla BBC al Guardian si punta il dito contro gli ultralaziali che a loro dire avrebbero stretti legami con il fascismo. Ultima nota, proprio oggi sono arrivati 5 provvedimenti di custodia cautelare, alcuni dei quali sempre nell'ambiente delle tifoserie, relativi però ad altri scontri, quelli della manifestazione di Roma del 15 ottobre 2011. Le accuse sono devastazione, saccheggio e resistenza al pubblico ufficiale, arresti avvenuti a Roma, Milano, Savona e Cosenza, e riguardano oltre agli ultra anche gli antagonisti e gli anarchici. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Blitz dalle prime ore del mattino. Il ROS e il comando provinciale dei carabinieri con la Digos della capitale stanno eseguendo 5 provvedimenti cautelari a Roma, Savona, Milano e Cosenza, emessi dal GIP del Tribunale della Capitale a carico di altrettante persone ritenute vicine agli ambienti dell'anarchia, del movimento antagonista, delle tifoserie violente. Si sarebbero resi responsabili di devastazione, saccheggio e resistenza pubblico ufficiale durante gli scontri del 15 ottobre del 2011 alla manifestazione per la giornata mondiale degli indignati a Roma. E ora a Milano, dove una donna è stata ritrovata in casa di un uomo da poco arrestato per rapina, era morta incaprettata con la testa in una busta di plastica. Poco prima, sempre a Milano, un assicuratore di 69 anni è stato ucciso in strada con un colpo alla testa. Nelle stesse ore un pregiudicato è stato freddato in strada a Torino. Di questo si parlerà alle 13.30 in Italia in Controluce con Daniele Biacchessi e Valentina Furlanetto, che è qui con noi in studio per darci un'anticipazione. Sì, infatti fra poco parleremo di questi episodi che, secondo quanto ci ha detto il questore di Milano poco fa, i due episodi milanesi sarebbero totalmente scollegati uno dall'altro. Stiamo parlando appunto dell'assassinio di una 44enne capoverdiana che è stata trovata in un appartamento in Piazzale Lagosta ieri durante un sopralluogo della polizia. Questo è un assassinio, secondo il questore, che troverebbe la sua origine nei rapporti fra la donna e il rapinatore a cui apparteneva l'appartamento. L'assassinio invece dell'assicuratore di 69 anni Diego Preda in Viale Mosè Bianchi ieri sera alle 19.30, si tratterebbe in questo caso non di una esecuzione con uno stampo di criminalità organizzata come si era temuto, vi ricorderete a settembre l'assassinio in Via Muratori, quanto di una situazione anche qui all'interno dei rapporti di quest'uomo e delle sue esperienze professionali o private. Su questo indaga la polizia, ne parleremo tra poco in Italia in Controluce. Grazie a Valentina Furlanetto. Governo battuto quasi all'unanimità nell'aula della Camera su un ordine del giorno del Partito Democratico alla legge di stabilità relativo alla Tobin Tax, e intanto l'aula del Senato ha detto sì alla norma salva direttori inserita al DDL diffamazione dal relatore Berselli. Ci aggiorna su questo in diretta Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Battute finali qui a Montecitorio per il provvedimento economico. Il testo che ieri ha ricevuto 3 voti di fiducia passerà quindi al Senato. Si stanno svolgendo in questo momento le dichiarazioni di voto, è presente il Premier Monti. Incidente di percorso intanto questa mattina per il governo, che è stato battuto a larga maggioranza su un ordine del giorno del Partito Democratico relativo alla Tobin Tax. Il testo approvato mira a non esentare nessuno dal pagamento della tassa, soprattutto sui derivati. L'esecutivo aveva chiesto una riformulazione che però non è stata accettata. La legge di stabilità si prepara dunque a passare a Palazzo Madama con tanti nodi ancora da sciogliere, dalle risorse per comuni e regioni alla riformulazione dell'IMU per gli enti no profit. Altro capitolo, il DDL sulla diffamazione. L'Aula del Senato ha detto sì alla norma salva direttori, quella che prevede che per lo stesso reato della diffamazione il giornalista vada in carcere fino a un anno, mentre al direttore e al vice direttore responsabile tocchi solo il pagamento di una multa. Sull'articolo 1 del provvedimento, che contiene di fatto il cuore del test che sarà votato lunedì, il Partito Democratico ha chiesto il voto segreto. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera si dice dispiaciuto per il mancato accordo con la CGIL sulla produttività. All'indomani dell'accordo sulla produttività, il ministro Passera torna sulla mancata firma della CGIL. Siamo molto dispiaciuti per il suo no, ma quelle della CGIL sono motivazioni che oggettivamente non tengono, dice, intervistato da Sky, la responsabile dello sviluppo economico che difende i contenuti dell'intesa. Ci sono delle risorse importanti messe a disposizione delle aziende che fanno, insieme ai loro collaboratori e dipendenti, più produttività. C'è certamente una serie di nuove norme che permette di premiare queste aziende, di lasciar libere, far crescere di più aziende che hanno lo spazio, nello stesso tempo senza imporre con contratti nazionali troppo vincolati e uguali per tutti, invece aziende che queste forze non hanno. Dopo l'intesa fra le parti sociali, il governo stanzierà oltre 2 miliardi di euro per la detassazione dei salari di produttività definiti con la contrattazione di secondo livello, un intervento bocciato dalla CGIL. Aumenterà la recessione, dice la numero uno del sindacato, Susanna Camusso, che invece aveva proposto di detassare le tredicesime. Si è persa un'occasione di fare una scelta di politica che avesse attenzione alle questioni sociali. È che in realtà si determina una riduzione dei salari reali dei lavoratori. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Al via la lunga giornata di bilaterali preparatori al vertice UE dedicato al bilancio 2014-2020, che si aprirà questa sera alle 20, primo faccia a faccia per il presidente Van Rompuy e quello della commissione Barroso con il premier britannico Cameron. Nel pomeriggio sarà invece la volta dell'Italia col premier Monti, che dovrà difendere le linee rosse del paese che sono i fondi per la politica agricola e di coesione. Ad ottobre 2012 la bilancia commerciale con i paesi extra UE registra un avanzo di 1,5 miliardi di euro, in netto miglioramento rispetto all'ottobre del 2011, quando aveva registrato un passivo di 657 milioni. Secondo i dati Istat, nello stesso mese migliora anche l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, che passa da 4,4 a 6,7 miliardi. Ed ora uno sguardo ai mercati finanziari con Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, abbiamo una giornata positiva sui mercati finanziari europei, che oggi peraltro viaggeranno in totale indipendenza, visto che mancherà nel pomeriggio lo stimolo di Wall Street. Il mercato americano è chiuso perché oggi negli Stati Uniti si festeggia il Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento. Le contrattazioni ricominciano domani con una seduta che sarà più breve. L'Europa viaggia positivamente, incoraggiata da numerosi fattori, intanto dalle indicazioni che sono arrivate stamattina dalla Cina. Il termometro dell'attività manifatturiera cinese torna a segnare espansione dopo 13 mesi, fornendo un'indicazione del rilancio dell'economia di Pechino dopo un semestre di rallentamento. È stato diffuso l'indice PMI, che è salito a novembre oltre i 50 punti, la soglia che separa l'attività di contrazione da quella di espansione. Abbiamo più 0,30% a Parigi, più 0,80% a Francoforte, più 0,57% a Londra, Milano più 0,76% sulle FTSE MIB. Continua l'attività di rialzo anche dell'euro sul dollaro a 1,2877, lo spread fra BTP e Bund sui 340 punti base. A Milano oltre 4 punti di guadagno per Mediaset e Buzzi Unicem, ma questi i migliori titoli. In leggera discesa a meno 0,2% circa per Luxottica ed Enel. Altra notizia da segnalare: la Spagna ha venduto 3 miliardi e 800 milioni di euro di titoli di Stato contro un obiettivo da collocare che era inferiore inferiore di 3,5 miliardi, i tassi sono tutti in discesa e per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Ora veniamo alle primarie del PD. Secondo un sondaggio della LUISP, Pierluigi Bersani sarebbe dato il 48% contro il 37,6% di Matteo Renzi, il 9,9% di Nicky Vendola, il 3,4% di Laura Puppato e lo 0,9% di Bruno Tabacci. Abbiamo intervistato su questo sondaggio il professor Roberto Dalimonte, editorialista del Sole 24 Ore. Direi che sono tre i risultati significativi. Primo, un grande interesse a partecipare, che poi vedremo se si tradurrà in comportamenti reali, cioè quante persone effettivamente andranno a votare domenica, ma al momento c'è un grandissimo interesse. Secondo risultato, che Bersani ha un netto vantaggio in questo momento su Renzi. E il terzo risultato però è che all'interno del campione, cioè di tutti coloro che pensano di votare alle prossime elezioni politiche, una coalizione di centrosinistra guidata da Renzi avrebbe il 44% dei consensi, mentre una coalizione di centrosinistra guidata da Bersani avrebbe il 35%. Quanto è il vantaggio di Bersani rispetto a Renzi? In questo momento è un vantaggio di 10 punti. Con questi sondaggi, con queste primarie in particolare, delle sorprese possono essere dietro l'angolo. C'è moltissimo interesse per queste primarie. La cosa che ci ha sorpreso di più è la percentuale di persone che hanno risposto al nostro sondaggio che dicono di voler andare a votare. C'è una percentuale molto più alta che nel passato. Questi dati vanno presi con le pinze, perché i dati di sondaggio, soprattutto sulle primarie, sono dati soggetti a variazioni anche significative. E ora per un aggiornamento sulle primarie del PD e del PDL ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Allora, buongiorno. Intanto c'è un'ultima ora del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che precisa: Monti non può essere candidato di nessun partito perché un senatore a vita non si può candidare al Parlamento. È già parlamentare, non è un particolare da poco, continua il Capo dello Stato, a volte si dimentica. Questo chiaramente fa il punto sulle polemiche sul Monti bis. Continuano intanto gli scontri alla vigilia delle primarie nel centro-sinistra, mentre ancora incertezza su quelle del PDL. Matteo Renzi risponde a Rosy Bindi, che l'aveva definito figlio del ventennio berlusconiano. Per il sindaco di Firenze la sinistra è più Obama e non la Bindi, bisogna fare come uno che ha osato, rischiato e si è messo in gioco contro il suo partito. Ma replica anche a Renzi il segretario PD Pierluigi Bersani sullo scontro sulle regole: non discutiamo di argomenti poco dignitosi, potevo fare il candidato unico, se si pensa male si fa male. Alle 14 invece riunione nel PDL per decidere la data delle primarie. Il segretario Angelino Alfano incontra i coordinatori regionali e provinciali in via dell'umiltà, malgrado lo scetticismo di Silvio Berlusconi. Conferma la sua candidatura a Gian Piero Samorì, ma lo attacca Guido Crosetto: non si offenda, ma è spuntato dal nulla. Continuano poi le defezioni nel partito dopo la nascita d'Italia Libera dei dissidenti, tra gli altri Bertolini e Straguadagno. Sulla via d'uscita anche l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Il punto di Stefano Folli. Ora che siamo alla vigilia delle primarie del PD e si delinea la vittoria di Bersani, resta da rispondere a qualche domanda di fondo sul destino della sinistra italiana. Ad esempio il fatto, messo in luce da Dalimonte sul Sole di oggi, che Renzi resta il più capace, molto più di Bersani, di prendere voti al di fuori del circuito tradizionale del centrosinistra, il che sarebbe fondamentale in una democrazia matura. Invece ascoltiamo Rosy Bindi, che accusa lo stesso Renzi di essere un figlio di Berlusconi. Costruisce così una barriera fra i buoni, i militanti del PD, quelli diciamo della sinistra democristiana o dell'ex partito comunista, e gli altri, gli italiani che hanno sostenuto negli anni Berlusconi e di cui il sindaco di Firenze sarebbe il degno continuatore. Ma è proprio con questa logica, con questa tendenza a chiudersi nel proprio castello tirando su il ponte levatoio, che il centro-sinistra si condanna in fondo a non capire realmente il paese e a non prendere mai i voti che sono dall'altra parte, come invece sarebbe essenziale. Il centrodestra vuole inserire proposte di modifica come emendamenti al decreto sviluppo ed è subito polemica. Il PD accusa un'altra legge ad personam per bloccare il lodo Mondadori. Con un emendamento che fa parte ormai dei 1600 che assediano il decreto sviluppo, i senatori del Popolo delle Libertà provano a inserire nell'ordinamento italiano il quarto grado di giudizio con effetto retroattivo. Il governo si schiera contro, il PD insorge accusando il PDL di cercare di forzare i codici di procedura, di stravolgere il principio secondo il quale, dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione, una sentenza civile o penale passa in giudicato. Ma soprattutto il sospetto che emerge, non solo tra i partiti e anche in ambienti governativi, e che l'emendamento rappresenti solo l'ultima legge ad personam per tutelare gli interessi passati e futuri di Silvio Berlusconi, a partire dalla sospensione del pagamento di 560 milioni alla CIR di Carlo De Benedetti per il lodo Mondadori, per cui attesa a breve la pronuncia della Cassazione. L'emendamento presentato da PDL in Commissione Industria del Senato introdurrebbe infatti la possibilità di ricorso straordinario alle sezioni unite della Cassazione per i cittadini italiani che ritengano di essere stati vittime nei processi a loro carico di manifeste violazioni del diritto comunitario. La norma in discussione sarebbe retroattiva e avrebbe effetti anche sulle sentenze passate in giudicato nei due anni antecedenti all'entrata in vigore della legge. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. I sindacati di categoria, tranne la CGIL, hanno sospeso lo sciopero e la manifestazione della scuola previsti per sabato dopo le rassicurazioni del governo. Massimo Di Menna, segretario della UIL Scuola, al microfono di Maria Piera Ceci. È andato bene perché il governo ci ha comunicato che ha predisposto l'atto di indirizzo che è necessario per il pagamento degli scatti di anzianità del personale. Quindi abbiamo risolto anche questo problema dopo aver risolto la eliminazione della norma delle 24 ore obbligatorie per gli insegnanti che non è più nella legge. E quindi siete tornati indietro sullo sciopero di sabato? Il vero sciopero era stato proclamato con questi due precisi e concreti obiettivi: eliminazione della norma delle 24 ore, ritorno dell'orario normale del contratto e atto di indirizzo per il pagamento degli scatti di anzianità. Li abbiamo riportati come risultato per le persone tutti e due, e quindi senza, tra l'altro, importante chiedere al personale di fare neanche un'ora, un giorno di sciopero, che in questo momento è comunque un sacrificio. E quindi abbiamo deciso di sospendere, revocare sia lo sciopero che la manifestazione. Restiamo sui temi della scuola. Quelli italiani sono i presidi più vecchi d'Europa, l'85% ha più di 50 anni contro una media europea del 60%, uno su tre addirittura più di 60 anni. Sistemi europei a confronto nel convegno oggi a Roma organizzato dall'Associazione Trelle e dalla Fondazione per la Scuola. Molte le differenze dagli altri paesi europei sul tema dei dirigenti scolastici. Attilio Oliva, presidente della Fondazione Trelle, al microfono di Maria Piera Ceci. La prima è che ovunque c'è un profilo professionale scritto di cosa si intende per preside, quali sono le sue funzioni, i suoi poteri e i suoi ruoli. Secondo punto, da noi non c'è valutazione dei presidi sul loro operato lungo il cammino. Altrove i presidi sono valutati periodicamente da ispettori o altri sistemi di valutazione esterni alla scuola. Il terzo punto è che nella selezione da noi ci sono principalmente prove su norme, leggi e anche su conoscenze astratte, e invece all'estero fanno, prima di nominarli presidi, un praticantato lungo di un anno o due. Non li nominano subito presidi, li rendono idonei a fare il preside e poi fanno uno o due anni di vicepreside sotto un preside capace, e quindi imparano il mestiere, lo vedono in concreto e alla fine sono giudicati. E ora le notizie dall'estero. Notte tranquilla a Gaza dopo il cessate il fuoco con Israele mediato da Stati Uniti ed Egitto. Da poche ore a Gaza non si levano più le colonne di fumo provocate dalle incursioni israeliane. Da poche ore nel sud di Israele non risuonano le sirene, con una sola eccezione questa mattina per un razzo che sembra sia partito dalla striscia in direzione di Ashkelon, ma sarebbe ricaduto in territorio palestinese. Nessuna conferma. La tregua regge per il momento ed è un bene, perché il premier Netanyahu ha detto che in caso contrario, se i palestinesi dovessero violare il cessate il fuoco, la risposta israeliana sarebbe ancora più dura. cura. La tregua è arrivata ieri sera. Un paziente ma pressante lavoro diplomatico del segretario di Stato americano. Hillary Clinton ha convinto l'alleato israeliano che gli obiettivi erano stati raggiunti: l'eliminazione del capo di Hamas, l'eliminazione dei depositi di razzi a lungo raggio. Al Cairo la Clinton ha fatto leva sull'appoggio che gli americani hanno dato ai fratelli musulmani. Difficile per Morsi tirarsi indietro. Dunque, subito dopo Israele, anche Hamas ha proclamato il cessate il fuoco, garantito dall'Egitto. L'accordo prevede la fine di ogni offensiva, lo stop alle eliminazioni mirate e la riapertura dei valichi. Hamas ha festeggiato quella che giudica come una vittoria, pagata con oltre 160 morti e più di 1150 feriti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I temi della giustizia penale sono continuamente all'attenzione dell'opinione pubblica e dei governi, particolarmente in un tempo in cui le differenze economiche e sociali e il crescente individualismo alimentano le radici della criminalità. Così il Papa, in un discorso in inglese rivolto ai partecipanti alla conferenza dei direttori delle amministrazioni penitenziarie del Consiglio d'Europa, ricevuti oggi in Vaticano. Prima di chiudere, due aggiornamenti dell'ultima ora. Una riguarda il nuovo direttore generale della BBC, che è Tony Hall, è stato appena annunciato dall'emittente inglese. Hall è l'ex direttore della Royal Opera House. E invece un aggiornamento che arriva dall'Italia: il finanziere Alessandro Proto, candidato alle primarie del PDL, indagato per truffa e aggiotaggio dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta di Isidoro Palma, che sta indagando sulle comunicazioni al mercato della Proto Consulting e su alcune operazioni immobiliari, un fondo riferibili allo stesso Proto. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento a regia Matteo Comes e un saluto da Adriana Fracchi. A GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. In apertura agli ascolti TV, non sfonda in prima serata Massimo Giletti. L'omaggio a Lucio Dalla, Caro amico ti scrivo, è stato seguito su Rai 1 da 4.057.000 spettatori, pari al 14,89% di share. Poco meno per la serie RIS Roma 3 su Canale 5, 14,47. 12% per l'incontro di Champions League Anderlecht-Milan su Italia 1. Il Museo del Cinema di Torino risponde a Ken Loach, che aveva annunciato ieri che avrebbe rinunciato al premio alla carriera al Festival di Torino. Motivo del rifiuto: la questione dell'esternalizzazione dei servizi che vengono svolti dai lavoratori con i salari più bassi proprio al museo. Respingo le accuse al mittente, ha risposto il direttore del museo Alberto Barbera. Dispiace che Loach sia stato male informato. Giovedì, giorno di uscite cinematografiche, la scommessa del weekend è la prima uscita di Sapore natalizio, Il peggior Natale della mia vita di Alessandro Genovesi, sequel della peggior settimana dell'anno scorso, sempre con Cristiana Capotondi e Fabio De Luigi. Un po' di pressione perché magari ci si aspetta che vada meglio, ma anche con la sana tensione, almeno che abbiamo avuto dall'inizio, di cercare di fare un sequel, un secondo pezzo di storia che fosse all'altezza dell'altro, che fosse bello quanto l'altro e se possibile di più. No, io sono molto contenta di questo sequel, una commedia di grande eleganza, fiabesca, di grande emotività, e questi sono i giorni dell'uscita, quindi stiamo tutti un po' incrociando le dita, però ci rimettiamo così al nostro pubblico, che spero che ci premierà come ha fatto lo scorso anno. New entry nel cast, ma anche coproduttore Diego Abatantuono, che non si dice preoccupato di far uscire un film in tempi difficili. Devo dire che io di film fatti dove che mi dicevano guarda adesso che esce questo film che esce in tempi facili non mi è mai successo, però devo dire che effettivamente questi sono particolarmente difficili. A maggior ragione, è un film brillante, una fiaba, 2 ore al cinema a vedere questo film possono solo fare allegria. Poi il film non è solo comicità, perché c'è anche un po' di malinconia, si trattano diversi temi, perché noi scherziamo molto sulla morte nel film, ed è divertente scherzare sulla morte, bisogna farlo, però poi quando nasce la bambina c'è un momento proprio bello, secondo me molto emozionante, e che ti fa cambiare in corso d'opera la faccia. Vedo la gente al cinema e quando c'è quel momento lì passa da qualche lacrimuccia di risata a qualche lacrimuccia di emozione. Evento speciale questa sera al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Per raccogliere fondi a sostegno di Oxfam Italia si esibiranno Elisa ed Annie Lennox in Italia per parlare del progetto The Circle, network di volontariato e fundraising al femminile. Annie Lennox. Nella nostra cultura che si basa sulla celebrità e sul consumismo, perdiamo di vista i valori. Ci dimentichiamo che ci sono donne che non hanno diritti e leggi che le proteggano. La parola femminismo ormai fa paura, ha perso il suo significato. Sembra una parola morta e ridondante, ma bisogna renderla contemporanea, farla rivivere non solo qui, ma soprattutto nei paesi in via di sviluppo. E per il GR Spettacoli è tutto, da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.